Ciao a tutte e tutti da Fred, la redazione di Vallun. Oggi si celebra il 160° anniversario dell'Unità d'Italia, ricordando quel 17 marzo 1861 quando a Torino si riunì per la prima volta il Parlamento del Regno d'Italia. La ricorrenza del 17 marzo, al di là della retorica istituzionale con cui questa data viene celebrata a partire dal 150° del 2011, è in realtà poco sentita e poco presente nel nostro dibattito pubblico. Come mai? Il processo di unificazione nazionale ha sicuramente perso quel fascino e quell'area epica di mito fondativo che ha avuto fino alla liberazione, definita non a caso come il secondo risorgimento, e viene percepito oggi come un qualcosa di assolutamente distante rispetto al nostro presente. C'è però anche un aspetto più problematico, detto questa freddezza rispetto al risorgimento. Ad essere messo in discussione oggi è lo stesso processo di unificazione nazionale. Per entrare nella complessità storica del risorgimento e individuare le problematicità che ci sono nel dibattito contemporaneo sull'Unità d'Italia, ci siamo rivolti a Jacopo Lorenzini, storico dell'Università di Macerata, che a lungo ha studiato l'esercito, istituzione centrale nel processo unitario e nel Regno d'Italia, e che ha da poco pubblicato con Salerno Editrice L'Elmo di Scipio, storia del risorgimento in uniforme, un bel saggio storico dal piglio decisamente narrativo. Jacopo Lorenzini, che cosa è stato il risorgimento italiano che tu hai studiato e chi ne sono stati i protagonisti? Il risorgimento che ho studiato è stato principalmente quello dei militari, regolari e volontari, che combatterono nelle guerre che ne hanno scandito tutte le fasi. Ma la questione che ho approfondito nel mio ultimo libro, L'Elmo di Scipio, storie del risorgimento in uniforme, è che quei militari non erano soltanto professionisti della guerra. Erano persone profondamente calate nel proprio tempo, consapevoli delle questioni politiche e culturali che giravano attorno alla fondazione ex novo di una nazione come quella italiana, che non aveva alle spalle una storia unica e tantomeno una memoria condivisa, e che per molti versi non ce l'ha nemmeno oggi. Ricostruendo le loro vite, che per inciso sono avventure degne dei personaggi di Salgari, esaltanti e tragiche, ho toccato con mano come il confine tra militare e politico fosse molto labile, e soprattutto che i militari non erano tutti uguali, né la pensavano tutti allo stesso modo. Che effetto hanno avuto le specifiche caratteristiche del nostro processo di unificazione sulla costruzione dell'identità nazionale, del nuovo Stato italiano, e che eredità ha lasciato il risorgimento nella successiva storia dell'Italia, prima monarchica e poi repubblicana? Il risorgimento è stato fin da subito un mito fondatore, anzi il mito fondatore dello Stato italiano. Un mito che però soffre di un peccato originale. Non è condiviso, e non lo è mai stato, fin dall'inizio. In ogni stato preunitario, in ogni singola città della penisola c'era chi desiderava l'unità nazionale, investiva tempo, denaro e magari la vita, ma c'era anche chi quell'unità non la voleva. Per fedeltà alla propria piccola patria, per paura di un futuro incerto, per odio della modernità e del suo simbolo, la Rivoluzione francese. Ma soprattutto il fronte degli unitari non era omogeneo. C'era chi voleva un'Italia monarchica e conservatrice e chi la voleva repubblicana e progressista, o persino democratica e socialista. Alla fine vinsero i primi e non ebbero pietà per i secondi e tantomeno per i terzi. Il mito del risorgimento tenta quindi di tenere assieme queste storie in una storia unica, che nasconde i conflitti in nome del risultato raggiunto, l'unità nazionale. Ma anche per via delle distorsioni alle quali è stato sottoposto da tutti i regimi che si sono susseguiti nel nostro paese, non credo che abbia più la forza da solo per reggere la fragile struttura dell'identità italiana.